anche se magari è il suo originale, però non ti fa la bella modulazione. Sure. importa, ecco, cos'è? Grazie, sono un telefono, cosa ha fatto? Ho sentito qualche campanello o qualcosa. E il walker acceso c'era? No, quello è una bomba, Claudio, con quella radio va benissimo. Oh, così è. Io mi stavo ascoltando, però la modulazione sinceramente non mi piaceva. Però non mi pare chissà per la radio, boh. Questa? Sì. E te la faccio vedere. Questo è un Seat SSB. E quelli grandi veicolari, 23 canali. C'è anche la banda laterale, questo. Io voglio dire, no, se è la stessa radio, gli sono cambiato microfono, siamo adesso usando un'altra radio. La stessa è, la stessa, vai tranquillo. È la stessa radio. E il dottor gli ho messo il 3+3, l'ho staccato dal Zodiac che l'ho messo qua. C'è lo stesso attacco, no? E se ne ha radio per qua. Ma c'è anche il Toso, il Celetta, ma c'è una modulazione molto diversa. Questa è migliore sicuramente. Brava, brava. Comunque questa qui va bene, voltarle si accoppia bene, è tutto a posto. Prova a riaccendere adesso quella Gibbio. Aspetta a vedere. Vedi che non aggancia, bene, adesso agganciatelo. Spegnilo perché sta andando male, brutta. tutta la grassa, sicuramente è andato in corto qualcosa, Massimiliano. Però sono talmente piccoli i componenti che non li vedo. Adesso come sta andando? Adesso è migliorato tantissimo. Non so. Vabbè, sì, mi allontano un attimino. Forse anche troppo attaccato. Com'è? Adesso sembra che andano bene qua, però quando vai a attaccare che non aggancia, scendi addirittura a segnale 7, e poi quando aggancia vabbè va a fondo scala. Tre pulsantini che erano mezzo inchiodati. momento. Ho smontato la mascherina, gliel'ho messo anche da parte interna un po', però non so se si è seccato, se non ha seccato, poi io gliel'ho spruzzato e poi l'ho asciugato. Ah, l'hai asciugato tu? A parte fuori sì, a parte dentro l'ho lasciato così, l'ho chiuso, poi adesso non so se avrà asciugato poi. Va bene, comunque sai, no, che lo controlliamo a vedere. Va bene, dai, Claudia, ci sentiamo dopo, che adesso chiudo e inizio a mettere la mia figlia in macchina e a salire, dai. A dopo, se coincide, ciao, sono qua. Pronto? Chi è? Pronto? Chi è? Tu sento me? Pronto? Vabbè, buonasera. Mi ha associato il nome. Vabbè, Antonino Bombolino, buonasera. Ciao Claudio. Non ti avevo conosciuto in questo baracchino, che sto usando un baracchino 23 canali che non ho mai collegato, e sto SSB. Non ti avevo conosciuto, Giuseppe. Ma non ci andate a Ussi? Io sto aspettando mio fratello, è un casino, mi possiamo qui. Io stavo aspettando. Stavo aspettando Gianni, ma Gianni deve essere là. A quel battesimo mi sa che qua non va tardi. Se per andare tardi non ci vado, allora mi interessa. Per andare tardi non ci vado, sono già le 8:30, no? Lì non posso andare, Giuseppe, come mi hai visto stamattina, capito? Non ci posso andare lì perché sono tutti i miei colleghi. Se mi vedono senza fasciatura, lunedì lo sanno, anche a Milano, capito? Quindi devo finire fasciato o una rottura di coglioni. Io proprio ti dica, io ero lasciato da solo a fare la bella tazzolina. Ciao Bombolino, no, ma infatti io non mi muovo, posso uscire dopo cena a piazzare i segni così a fumarci una sigaretta, ma no, così non ci va, cioè se ero senza fasciatura ci andavo, ma andava tutto appiccato, cioccato. Mi rompe un bel balle, Giuseppe, capito? Ehi, a parte quella, a parte quello lì, poi non ci sono, hai capito? No. Mi hai capito che cosa, Claudia, dai, mi hai capito, perché? E poi, no, qua, se ci fosse stato Gianni, mi avrebbe detto, dice io, Giuseppe, vieni a casa, saliamo assieme e... sarei anche andato, però da solo non mi va, hai capito, lo faccio, lo salgo da solo a rimanermi lì come un coglione, no, preferisco rimanere attaccato al baracchino, oppure guardarmi la televisione, faccio le 2 di mattina, le 3 di mattina, e chi ce ne frega, però sono a casa. Ehi, no, ma per quello non c'è problema, perché io fasciato non ci vengono. Fino a quando sono qua a Sassari me la posso staccare, non c'è problema, però andare lì è un casino perché sono i miei colleghi, capito? Mi dà fastidio, mi dà un bel fastidio. Oh Bombo, bene, mi ascolti con questo baracchino a 3 più 3. Bomboletta, ma ti devo fare un partire. Ma Bomboletta, ma esci? E magari dopo cena sì, magari dopo cena sì, capito, qua a Piazza dei Seni posso anche uscire o un'oretta a fumarmi una sigaretta, ma andarmene in giro no. Ciao, ma a che ora cenate? A che ora ceniamo noi? Sono le 9. Ti ha cenato a Giuseppe? No. Ah, tu non hai cenato? No, negativo, adesso. No, io mangio qui, mi faccio di quei così che mi saranno passati da pranzo, dai, quei broccoletti, capito? sentito il pano, il pane, anche un pacco di crackers e un arancio, boh. Ehi, va bene, va bene. Va bene, d'accordo. Se al limite, se in caso esci, mi fai uno squillo e ti raggiungo, non ci sono problemi. No, lui sei Sandro, non sono io. Ciao Sandro, buonasera. Buonasera Sandro, cazzo te, è così. La gallina ha fatto il coccolè? Chi sei Sandro? Quello ce l'ha lui, capito? Perché c'è qualcosa che non funziona, Scusate un attimino. Anche tu, già sei venuto tutta la gira che non mi funziona. No, sono le prese con un amplificatore, lo piccolo, che era andato in tinti e non riesco a trovare il guasto. Metà l'ho già trovato, ma c'è qualche componente che sta rompendo le palle e non riesco a trovarlo, capito? Ok, dai, bianco per me che cambio radio, che questa è in alto, mi viene male, cambio barracchino. Vabbè, una cosa qua, veloce, ma allora che se esci a che ora esci? Dopo cena, Giuseppe, che ne so, sono 9:25, se c'è qualcosa da mangiare è pronta e poi esco, capito? Ci vediamo su Piazza del Sì. Ecco, fa una cosa, bisogna dirlo a papà, ma è un video. Eia, va bene, riprendi Giuseppe. Eia, va bene, hai capito Claudio? Se mi fa un colpo di mi fa una pancia, dai. Capo di voi sentimo, avanti Sandro. Eia, aspetta un attimino. Sto uscendo, mi ascoltate, buonasera. Da voi ti ascoltiamo, la grande, non c'è problema. Giuseppe, grazie. Prego. Scusa Sandrine, se dico quella battuta, era una battuta, facciamo forse Claudietto. Sì, vabbè, non c'è problema. Ti addebito un caffè, dai. C'è problema anche lui, quando sali, ma perché no invece Sandri non fa una cosa, una domenica se sei libero, sempre se sei disponibile, ti fai un salto a piantare i segni, almeno ci troviamo tutti quanti, che mi fa piacere rivederti dopo una marea di tempo, anche se l'avevo già visto una volta, però mi fa piacere rivederti, dai. Capa Giuseppe, lo so, però purtroppo il tempo per me è molto prezioso, e quindi insomma non è, ma comunque già capiterà, dai, già capiterà, non c'è problema. Beh, Capa, vabbè, lo puoi sapere a Claudio quando deve andare a casa sua, mi fai una pancia e ci troviamo tutti quanti lì, vicino a casa di Claudio, almeno andiamo a pensare una cosa, tutti quanti insieme, capito? No, non ci sono problemi, vai Claudio. Claudio non c'è. Claudio deve essere andato a controllare. Deve essere. Ok, qua è a posto. Deve essere andato a controllare la pentola. Claudio. Ho detto che stavo cambiando radio, capito? Ah, ok, dai. Ok, fai pure il trasferimento, dai. Già fatto, perché non si sente. macchina c'è che non stiamo guardando? Prima c'avevo un baracchino, il microfono è sempre uguale, adesso ne ho messo un altro il baracchino. Ah, ho capito, vai. Sì, va bene, va bene. Bene, bene, bene. Vabbè, non c'è più nessuno. Claudio, dimmi una cosa, gli ispezioni oltre 45, 90 e 120, volendoli fare più lunghe, sempre di 45? Sempre a multipli. Sempre dispari. Ho capito. Va bene, va bene. Allora, da 55, fai 45, 55... 75, capito? Ok, va bene, va bene. No, perché mi devo fare uno spezzone un po' lunghetto, almeno 120, almeno 120 mi servirà più o meno, 120, farlo da 130 o da 125 come quello che ho io. 125, non usciamo fuori la misura standard. Non ne fa niente, anzi, se lo usi per quello che ho capito io, accorda ancora meglio. Già mi hai capito per che cosa lo devo fare, capito? Perché lo devo trasferirlo, devo spostarlo e quindi devo utilizzare diciamo uno spezzone. Capisci a me? Ti comprendo perfettamente, faglielo, lo puoi fare anche a 125, capito? Non è nessun problema, vai tranquillo. Va bene, va bene. Ok, dai. Riprendi Giuseppe un attimino di bianco da parte mia. Avanti, avanti bombolino, sì sì sì. Ma non gli ha redatto Antonio? Oh, non lo so. Ho già mandato un cra. Eccomi. È già papà o? Già. È già papà o? Oggi è sabato, la pizza? Caffa! Una gorgonzola! Guarda, stanno facendo lo stesso, mi sto aspettando che sia pronta. Però credo che sia pizza con un po' di ghiaia e carciofi. E dove va ghiaia e carciofi? E un po' di ghiaia e pino di carciofa. Allora, chi è avanti? Hola, Pedro. Con la speranza che mi possiate ascoltare, grazie. Sì, quasi più 20. Radio indescrivibile. Vai Giuseppe, è Pierpaolo. Ciao Pierpaolo, buonasera. Buonasera a todos. E beh Pierpaolo, tutto bene? È tutto ok? Tutto bene, no, ho un cappello pieno. E beh, giustamente, Giulia. E così, avanti, zio Claudio. Pierpaolo, tutto bene quando il portafoglio è pieno, che tubidio è un bel scarso, madre di Dios, molto molto scarso, però dai, ci tira avanti, perché intanto se ci mettiamo a discutere di queste cose non li buco i mobili, allora se la biglia è come le posso amare, capite? Cosa vuoi fare? Se la biglia in culo, Pierpa. Di Russo stai andando alla grande, capito? Alla grande. Se pare sia tutto regolare, stazionale, non è vero, tutto a posto. Tira a campà perché stai andando alla grande, Pierpa. Molto, molto bene, fortissimo, non ci sono problemi. È sempre forte, sì, 9-10 abbondante qua. Sì, con il senso senza eco. Che vado a te? 25. Va bene. No, anche senza eco funziona bene. Spinge molto bene quel baracco. Se volete salire dopo, lascio cielo, poi se ci sentiamo 10 minuti per non stare al telefono, capito? Ci facciamo un salto. Ci sentiamo dopo, se posso uscire. Va bene, Pierpa, tanto io cielo, poi già sono qua in radio, capito? Se è possibile, ci prendiamo una boccata d'aria fresca, dai, per non stare sempre qua a rompere i coglioni in radio, tanto già grazie, vi va, non va mai in giù. Rimane ha inteso una persona che ha detto che di Alfaietti che si prendava di Vieto Baracchetti di Capolo. A me non mi pare che c'è. Che sono Baracchetti di Capolo? Allora, che non servono a niente. Già non servono a niente, no? Lascia perdere. Non sono grandi, non sono grandi baracchini, però funzionano bene. Ma chi l'ha detto? Ce n'è dei baracchini di vecchia generazione che funzionano molto molto bene, non bene, no? No, dice quelli nuovi che stanno facendo della spaghetti, non servono a niente, ma io ne ho avuto quattro, eppure funzionano bene. Per me funzionano benissimo, Anto, senza problemi, la verità, funzionano molto molto bene. Sai che quattro ne ho comprate? Quattro ne ho comprate. Addirittura? Caspa. Ho comprato due Zeo, un Arex Pro e un Venus. Ho comprato. Solo l'Apollo mi manca, che è quello per più semplice e semplice. E funzionano benissimo. Ma infatti, voglio compresso. Che dito quello là con il DM1000 che fa bene? Questo ci fa bene, ma voglio, alla grande qua. Ma è sempre funzionato dove? Vabbè, capisci un crack. Mettere la roba in mano non funziona mai, ma se mi affiggi, va. Aspetta, stavo sbagliando il microfono. Vabbè, ognuno c'ha il suo modo di usare la radio, io ho altro, capito? Lo so, però molte volte dicono fregnacce, dicono... A me sembra sempre funzionato tutto bene. Dal più piccolo al più grande, ma sempre funziona proprio bene a voi. Ma infatti, ci funziona bene quella ragazza di Napoli. Ah, perché molte volte sento le cavolate, sento. C'è qui. Giustamente io lo so perché lo uso la sera, per non far casino uso l'altro, hai capito? Per essere tranquillo, allora uso l'altro piccolo, però funziona bene, intendono tutti. Certo si intende, ma qui non te lo sentire, no così. Ma la grande. No, non ci sono problemi, ho capito. Va benissimo, molto bene, non bene, va benissimo. Questo è il mio preferito, l'Intec 550 Power. Ma perché mi hai stato un vecchio avanti? Ciao Claudio, benvenuto a te e tutti gli amici della ruota che sono un pochettino un po' falsini, dai, tutto qua, direzione Ossi, sono nel salitone, nella salita prima di entrare al paese, come mi copi, con l'antenna piccolina sono qua. Grazie, sono un 4 volte, si fa una scala tu qua, non sai che ce l'ho davanti o sì. Cappa di Roger, dai, situazione adesso così con l'antennino, ecco, volevo appunto vedere se mi ascoltavi, dai. Io tra non breve sono lì, diciamo, a destinazione, dopodiché si farà questa serata con gli amici, dai. Io non lo salire con Gianni e Giuseppe, però Gianni è un battesimo, esce tardi e poi io c'ho... Mi devo incontrare con mio fratello che non posso salire, capito? Già la strada mi vitti. Già ci saranno altre occasioni, non c'è problema. Ok, va benissimo. Chi c'è? Ruota, Cla? Buon lo senti a Gianluca? Ti tengo già allora, mi senti, no? Che... Già ti sento tranquillamente, Santiago di 4-5, Radio 5. Come vi colpi tu, Bombolini? 5-7, 5-7, 8, dipende, 11, dai. Chiappa. Ma la radio è buona anche, sì. Va benissimo la radio, Bomboli. Ti ascolto benissimo, tranquillo. La radio prevale sopra il segnale, stai uscendo più di radio che di segnale, ok? Chiappa, dai. Non vi sono problemi, dai. Avanti, chiappa. Ma io adesso sto arrivando, ancora non sono arrivato, è il tempo di piazzare, non è che ci voglia questo granché. C'è anche un'altra festa che si dividono le situazioni, perché non so che cosa ci sia qua, ma dopo magari a toppanitivi, perché sono tutti quanti amici appunto di questo qua del bar, da questo cugino, dopo che tra l'altro ho saputo che è del cugino anche di Costi, Leoncino lì. Ok, io sono dentro il paese qua. Non so se adesso mi continui ad ascoltare. Ecco Giorgio, sempre con lo scala, sì, sei davanti a me. Io sono proprio in mezzo, diciamo, alle palazzine qua, non so benissimo come è la palazzina. Baracchino Campa. visto lo da lontano, a Madonna, quando entra a Bombone, ma va la mamma di giocare. Ma ha messo un nome in arrivo, ma mi ha messo. E ti ha detto di salutare anche a me? Bombonio, però adesso non mi ricordo il nome in arrivo. Attento, molto bomba. Sempre 4, eh. Sempre un 4, vecchia. Ma è Giuseppe lo guarda, Giuseppe. Stavo guardando quelle film strane. Quei film che fanno allungare il pisello. Ci ha fatto il gas a terra, il canale di Bucaccione. Illo Maria, che fumare dall'altro, mi fa piano vedere, secca sta ogni casino. Già lo so, già lo so. Purtroppo lì ce n'è tutti colori, ma non... Non mi piace. Scappa. Oggi non si vede questi giorni, ma l'altro giorno si vedeva. Gesù Maria, sei tutta di più che nera. Quindi, zicca zicca, pompa a mano. Zicca zicca, si vuoi giù. La grande. Ah, se ne rivaria. Guidava tutto in inglese. Pronta è la pizza con la cazzoppa. Cazzotti di pizzo, bruciati. Ma che è questo? Tutte le spine si sono bruciate. Ma di nulla, non manco, non le mangi. Attento, furgoncino. sicuramente sarà ancora al coso, eh. In cappa, vuol dire che l'hanno trattenuto là, non lo so, l'avranno trattenuto lì. Ehi, è positivo. Ehi, vabbè, non andare così tardi, no. Andare così tardi, no. Capito. E poi vediamo, siamo a Piazza Licini, allora ci vuole 5 minuti. La scala di Ciocca, 5 minuti. Adesso la guida ancora la prossima mano. Ui, non vuoi perdere la mano quando hai questo paese. E Gianluca sta cantando. Che canta? Gianluca con il produttore, se. No, una serata usci, capito? Piazza. No, lì non va per centrale, dai. Non è capo, no, non penso proprio. E poi non so che cosa c'è, forse c'è qualche altra festa in piazza, boh, non lo so, non ho capito bene. Non lo so. Non lo so neanche la verità, non ci ho capito un cacchio. Paese. Non è che ci sia mai andato, la verità. Una volta così ci sono passato, ma no. Non è andato mai. E lo conto lei di lampa già? Sì. Stavo controllando lampa già. Dov'è che lampa? Dov'è che lei lampa? Un lampa? Chi c'è un lampa? Ci raggiunge lì Piazza Licini. Bene, va bene, io sono qua. come va bene con calma, adesso mi faccio una bella fischiattina. Stazione Birretta. Avanti, perché non si accontenta. Ah, ti saluti, adesso cazzo non mi ricordo bene il nominativo. Comunque è Ghisso che va a rubare chi per gli affermi. Ma lo conosce? In fila? Sta fermi lì, date dare il pompiere. Quel tipo lì, tante saluti da lui che già ti conosce bene. Ma è nominativo, ma adesso non me ne ricordo. Dica un pochettino sotto, cicciotto. Da fermi? Cosa diavolo è? C'ha il bar lì e ti conosce bene, perché mi ha detto un altro vecchino ti avrebbe. Io devo salutarmi a compugno, sono normalmente dimenticato la matita va. Vabbè, io conosco la voce più che altro, lui proprio l'ho visto un paio di volte. Perché se lì andavamo con Stefano, capito? Una volta ci vedevamo andavamo lì a bere una birra, perché c'era il buon caffè e la birra. Capito che sto dicendo? Mica adesso ha rinnovato il locale questo qua a me. Io ho capito già, già lo conosco già, non è che non lo conosca. L'avevo di spesso diciamo, con Stefano lì, quando veniva la cosa da Urbia, andava lui ci aveva la birra, conosco anche la Urbia, non c'è problema per quello. Come di più c'è cosa, la casa di Antonio Sorventi abita lì. Abitava, diciamo, c'è ancora l'antenna sopra. Si chiama Pierpaolo, si chiama questo tipo. Antonè, dimmi. Che sto uscendo adesso, dai. Tieniti pronto, sto venendo a prenderti, dai. Vabbè, se metti i calzoni in un muro. Oh, io vado a parlare, dai. Lasciatemi il tempo e... ci sentiamo tra 10 minuti. A dopo. Ok, d'accordo. Ciao, grazie, sentiamo. Hai capito, si chiama Pierpaolo, si chiama. Mi un tipo poco, un po'. Del compreso, sì. Oh. Il compreso ci invece è lontanato, altro. Ma non salite voi? Devo dire la babbo. Ciao. Ciao, mangiato.